Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vedo già dei messaggi sulla Brexit al 349-238-6666, perché? Perché, e ne parleremo più avanti, c'è una notizia che potrebbe creare non più di un problema agli italiani, non solo gli italiani, tutti gli europei presenti in Gran Bretagna, in primo luogo a Londra, ma non solo. È l'idea sostanzialmente che dal 2000, non subito, ma dal 2021 gli ingressi saranno sbarrati, quindi dopo la fine della transizione, nel periodo della transizione verso la Brexit, e ai nuovi immigrati a bassa qualificazione e chi non parla bene la lingua inglese. Vedo che alcuni sono assolutamente d'accordo. Nulla da obiettare, è un modello che assomiglia un po' a quello australiano, dove l'Australia ha un sistema molto efficiente di ingressi, chiede proprio le professioni, servono quest'anno un certo numero di infermieri, un certo numero di fresatori, un certo numero di insegnanti di tecnica e va e dà i punteggi su questo, perché anche quello sarà un meccanismo a punteggi, devono avere un minimo di 70 punti, i punti verranno attribuiti 10 o 20 per voce soltanto a chi avrà già in mano offerte di lavoro da 25.000 sterline l'anno in su, oppure titoli di studio specifici come il PhD, quindi oltre il master, o qualificazioni per settori con carenza occupazionale nel Regno Unito e conoscenza dell'inglese. Poi ci sono anche dei casi particolari e strani. Il problema è che questo riapre o rischia di aprire un contenzioso forte con l'Unione Europea. Faccio notare che i dati relativi al periodo 2018 segnalavano 700.000 italiani che vivevano in Gran Bretagna e circa 15.000 studenti italiani, quindi non al netto appunto del lavoro di chi è lì per lavoro, ma vale anche per gli studenti. Qualcuno mi scrive: vale anche per i calciatori? Non lo so, la vedo dura sui calciatori. Immagino che lì si entri più nella categoria, non so, carenza occupazionale, non lo so, dipende per che squadra. Se per il Manchester City, forse in questo momento sarà più dura. Al di là delle battute, di questo parleremo invece anche di un tema ancora più delicato, perché l'Italia, l'ho detto oggi, il Presidente del Consiglio Conte non è contenta e non ritiene sufficiente la proposta sul budget europeo che è stata presentata a livello di Commissione europea. Ha detto Conte: l'Europarlamento boccerebbe un bilancio inadeguato, la proposta è ancora inadeguata, il quadro pluriennale è una sconfitta politica, il negoziato deve portare un'Europa più forte, ma non sarà un negoziato facile. L'ho detto stesso il Presidente del Consiglio, sarà un negoziato complesso. È importante lì perché l'Italia con altri paesi punta a un bilancio più consistente, ma soprattutto sullo sfondo non sfugge a nessuno che in ballo non c'è solo il bilancio dell'Unione Europea, c'è l'idea di poter arrivare a un accordo europeo che tenga conto delle difficoltà economiche delle principali economie, Francia, Germania e Italia, e tenga conto delle variabili esterne, coronavirus, che rischiano di compromettere la crescita o nel caso dell'Italia quel poco di crescita che era previsto per il 2020, e anche di questo parleremo. Per quello che riguarda i mercati, alcuni vogliono sapere ancora della vicenda Intesa UbiBanca. Ieri abbiamo fatto insomma metà programma di approfondimento, è chiaro, e oggi lo ha richiarito anche lo stesso Victor Massia, che non ne sapeva nulla. Ci sono dichiarazioni appunto dei vertici di UbiBanca. Il titolo in questo momento è più tranquillo, ma ieri aveva raggiunto sostanzialmente il livello dell'offerta. Mi riferisco appunto a UBI, che oggi cede anche qualcosa, lo 0,26%. Per quello che riguarda Intesa invece guadagnano 0,20%, BPER è invariata. Il miglior titolo è STMicroelectronics più 4,30%, Moncler più 4%, Pirelli più 3,5%, Prismian più 3,20%, ERA più 2,70%, Fineco più 2,40%, Unipol più 2,20%, Nexi più 2%, Banco BPM più 1,80%, Amplifon più 1,70%, negativa Campari meno 3,5%, Juventus meno 2%, Leonardo, l'ex Finmeccanica meno 1,30%. Parleremo anche, non c'è molto altro da aggiungere oggi sull'offerta, c'è qualche dichiarazione però che arriva anche da Mustier, dal numero uno di Unicredit. In apertura invece la vicenda Conad, perché qualcuno ha detto ah, non vi occupate mai di Conad. Guardate, ci sono tante crisi aziendali, ci siamo occupati di Eritrea recentemente, il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono 160 tavoli, come si chiama, cioè 160 crisi aziendali aperte. Oggi torniamo a occuparci di Conad, perché? Perché da un lato l'azienda, come riferito dal segretario nazionale di ANC Conad, Sergio Imolesi, non ha intenzione di operare alcun licenziamento per tutto il 2020, licenziamenti collettivi. Qual è il tema? Conad ha siglato un accordo lo scorso 14 maggio con Auchan Retail per acquisire la maggior parte delle sue attività in Italia. Auchan Retail aveva in tutto circa 1600 punti vendita, ipermercati, supermercati, negozi di prossimità con i marchi Auchan e Simply. Valore complessivo dell'operazione 1 miliardo. Il problema si pone perché, come spesso abbiamo visto anche nel mondo bancario, ma non solo, quando fai queste operazioni iniziano ad esserci gli esuberi perché ci sono sovrapposizioni. E Conad, nel appunto dire che non farà licenziamento 2020, però ha confermato che l'ipotesi su un totale su 16.200 dipendenti inizialmente non erano sostenibili in 6.000, poi ha aggiunto in questi 4 mesi ne abbiamo già sistemati 3.000, gli esuberi allo Stato sono 3.000, però abbiamo tutto 2020 per ridurre progressivamente questo problema. E poi ha aggiunto che oltre un centinaio di punti vendita adesso sono già passati all'insegna Conad. Di questo parleremo perché, ripeto, 3.000 persone ancora non sono poche. Poi sui mercati commenteremo anche il piano industriale di Pirelli, dati diffusi oggi, Pirelli vede i ricavi 2020-2022 in crescita del 3%. La borsa l'abbiamo detta, ma sì, mancano le altre borse, mi fate notare, avete ragione. Allora, Milano complessivamente guadagna lo 0,90%, Parigi più 0,70%, Francoforte più 0,70%, Londra più 1%, Dow Jones mezzo punto percentuale di rialzo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, sul coronavirus oggi si aggiunge anche il Fondo Monetario Internazionale, perché dice che dopo il rallentamento dello scorso anno l'attività economica globale è fragile e sebbene attesa rafforzarsi moderatamente nel 2020, la fragilità e i rischi a ribasso restano, anche e tra questi cita esplicitamente la tragedia umana che sta interrompendo l'attività economica in Cina. Facciamo ogni giorno il bollettino del coronavirus. Allora, la banca centrale cinese vede per ora un impatto limitato, ancora limitato, però insomma lo vede solo lei, perché già molte agenzie hanno ridotto dal 5.8 al 5% la crescita della Cina quest'anno. Fitch, a proposito di agenzie di rating, ha tagliato anche la crescita della Corea del Sud, un 0,3% in meno. Però qualche notizia positiva sta arrivando, per esempio General Motors e Fiat Chrysler hanno riaperto gli impianti o stanno cominciando a riavviare la produzione. Nello specifico General Motors ha detto che ci metterà 2 settimane per riprendere la produzione nei suoi 15 impianti. Però alcuni dati devono già far pensare. Adidas, per esempio, che ha un'infinità, a 500 negozi di proprietà in Cina, 500, e 11.500 in franchising. Questo per dare anche le dimensioni, cioè l'Adidas per coprire la Cina ha 12.000 negozi. Ebbene, le vendite hanno fatto meno 85%. Ora, anche qui, questo nella regione della Grande Cina, che comprende anche Taiwan e Hong Kong. Tra l'altro un terzo dei ricavati di Adidas li fa proprio lì, vende 6 miliardi e mezzo di scarpe, non solo, insomma, di oggetti a marchio Adidas. In realtà sono 6 miliardi e mezzo solo nei primi 9 mesi del 2019. Però il problema qui è molto semplice: sui consumi le stime che arrivavano anche ieri da Geraci erano di una ripresa molto più lenta della parte retail, cioè dell'attività dei consumatori rispetto alla parte produttiva. La parte produttiva potrà ripartire più controllata, ma ripartirà. La parte di consumi, che interessa anche molto noi, ripartirà più lentamente. Il tema è proprio questo, cioè gli 85% di vendite in meno verrà recuperato, nel senso che per motivi anche proprio logistici è difficile in questo momento muoversi e fare acquisti in Cina, oppure uno lo archivia, se lo porta a casa e sostanzialmente ha compromesso l'intero anno. Su questo io non vedo nessuna indicazione chiara. Andiamo all'Italia, lo spread è a 133 punti base, quindi sostanzialmente stabile su 130 punti base. Ha detto il Presidente del Consiglio Conte, in questo momento siamo concentrati su una priorità, che è far crescere l'Italia. Mi prenderò qualche giorno per poi lanciare una cura da cavallo per il sistema Italia. Siamo in emergenza, dobbiamo tutti lavorare, ognuno in base al ruolo che ha. Non mi appassiona, non l'avete già capito. Grazie. Siamo concentrati, è stato molto proficuo, questo sì, il clima che si è verificato sui tavoli di lavoro, il confronto delle forze di maggioranza, abbiamo messo a punto una serie di idee, adesso mi prendo solo qualche giorno perché l'Italia non può attendere, per lanciare un piano, l'ho appena detto, una cura da cavallo per il sistema Italia. Il sistema Italia non può crescere con questi numeri, non possiamo essere fanalino di coda, ci sono delle situazioni anche congiunturali molto, come il coronavirus, le tensioni commerciali, dobbiamo assolutamente tutti lavorare, ovviamente ciascuno per le responsabilità che si assume rispetto ai ruoli, rispetto a chi è in maggioranza, a chi è in minoranza, in opposizione, ma dobbiamo tutti lavorare per far crescere questo sistema. E quindi verrà fuori una cura da cavallo. Siamo, io direi, un'emergenza nazionale. Noi quando ragioniamo di emergenza riusciamo a coordinare le nostre forze al meglio e a esprimerle al meglio. E dobbiamo lavorare come se fosse un'emergenza nazionale per far crescere l'Italia. Sì, vedo molti commenti degli ascoltatori. È chiaro che in questo momento il problema che ha Conte è la tenuta della maggioranza. Se vedremo questa sera Renzi a Porta a Porta, se così sotterrerà l'ascia di guerra, oppure invece disotterrerà l'ascia di guerra, oppure fumerà il calumet della pace, per dirla in un linguaggio un po' da pelle rossa e cowboy. Il problema è, lo dico non per entrare nelle polemiche sulla prescrizione o non prescrizione, prima che io la sensazione netta che il paese non capisca tutto questo avvitarsi, lo dico anche ai renziani, tutto questo avvitarsi in generale e posizioni, quando le problematiche sembrano essere altre. Io sono d'accordo con Conte, una cura da cavallo, però poi cosa vuol dire? Perché allora mi viene la battuta, se il cavallo poi non vuole bere, allora abbiamo visto l'ufficio parlamentare di bilancio che dice attenzione, l'impatto del cuneo fiscale sarà più ridotto del bonus da 80 euro, ma qualcuno mi vuole parlare in questo paese a livello di governo di quali investimenti sono considerati prioritari, dove andiamo a concentrare le risorse, cosa andiamo a dire a Bruxelles, andiamo a dire che dobbiamo fare questi investimenti e quindi questi miliardi ci servono, il deficit sarà più alto, faccio per dire, oppure andiamo a dire che no, staremo dentro tutti i parametri e non si capisce bene come, perché poi la cura da cavallo devi farla con i soldi, non è che la puoi fare così. non può essere una cura omeopatica che tu dici al cavallo guarisce, il cavallo guarisce, e devi farlo con i soldi vorrei capire dove vengono, e vorrei che tutti si concentrassero su questo, a partire da chi sta al governo ovviamente, mica l'opposizione ha lo stesso obbligo di chi è al governo. Comunque andiamo avanti perché poi voglio arrivare a Conrad O'Shan. Dunque dice se il coronavirus, il ministro Gualtieri oggi ha detto che se il coronavirus avrà un impatto significativo il più 0,6% stimato potrebbe essere rivisto al ribasso. Mi sembra un po' ottimistica come previsione, perché già tutti gli altri istituti hanno previsto un 0,2-0,3% per l'Italia, la stessa Commissione Europea, io lo dico con massimo rispetto a Gualtieri, non ha senso, l'abbiamo visto nel passato, anche nei governi passati, governi Berlusconi, ma non solo, continuare a mantenere una proiezione, una previsione che poi non si realizza. Meglio fare un'operazione di realismo subito, se tutti ci dicono che faremo 0,2-0,3 siamo partiti deboli, ecco, cioè, inutile dire forse lo taglieremo, secondo me va già tagliato sixtantibus rebus, perché poi magari cambia tutto, scopriamo che da luglio in poi c'è un'esplosione del commercio mondiale, va bene, e lo rivedremo a rialzo. Allora, Air Italy, la buona notizia qui è che, anche perché c'era un piccolissimo problema di continuità territoriale con la Sardegna, Air Italy ha riaperto le prenotazioni per quello che riguarda la continuità territoriale, quindi a prezzi agevolati sulle rotte che sono Milano-Olbia e Roma-Olbia, e chiaramente anche Olbia-Roma e Olbia-Milano. Si potrà continuare, sono riaperte le prenotazioni fino al 16 aprile. Le vendite dei biglietti con partenza dal 14 marzo al 16 aprile avverranno attraverso il call center e nelle biglietterie aeroportuali. I collegamenti saranno operati da equipaggi aeromobili noleggiati e non con velivoli o dipendenti Air Italy, per almeno la continuità viene mantenuta. Il ministro De Micheli oggi ha detto: la liquidazione di Air Italy è figlia di problemi tra soci e con i soci insisteremo nella richiesta di cambiare la procedura di liquidazione in procedura in concordato. Reddito nel momento della crisi e poi lavoro. Secondo, per garantire i trasporti, firmerò domani il decreto sulla continuità territoriale per la Sardegna, sì, perché anche i cittadini hanno i loro diritti, soprattutto i cittadini come sardi, no, oltre a tutti coloro che ovviamente vogliono recarsi in Sardegna. Terzo, un piano industriale a che il governo ovviamente aiuterà a realizzare, affinché il sistema del volo italiano, perché noi abbiamo anche la crisi, sì, all'Italia in corso, lo sappiamo, riprenda fiato, considerato che il numero dei passeggeri che volano nei nostri cieli cresce tra il 5 e il 7% annuo. Così appunto il ministro Paolo De Micheli questa mattina alla 7, poi ha detto su Air Italy, ma questa volta il question time alla Camera, sono stati attivati contatti diretti con le autorità catariote per verificare la disponibilità a mantenere gli investimenti in Air Italy. Proprio oggi ho incontrato l'ambasciatore in Italia del Qatar. Ho convocato i liquidatori e l'ENAC per fare il punto della situazione, manifestando la forte irritazione del governo per il mancato coinvolgimento delle istituzioni in una scelta foriera di notevoli conseguenze sul piano occupazionale e trasportistico, e chiedendo di individuare alla società e ai liquidatori percorsi alternativi rispetto a quello della liquidazione, al fine precipuo di assicurare la massima tutela per i lavoratori e la continuità dei voli. Sono stati attivati contatti diretti con le autorità catariote per verificare la disponibilità a mantenere gli investimenti in Air Italy. Proprio oggi ho incontrato l'ambasciatore in Italia del Qatar, che ha ribadito il carattere strategico dei rapporti tra i due paesi e manifestato la disponibilità ad individuare ogni possibile soluzione condivisa. Nei prossimi giorni, anche a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali, nonché delle risposte che verranno fornite dalla proprietà, che non è solo catariota come gli interroganti sanno bene, sarà possibile definire il quadro complessivo della vicenda, sulla quale modulare i prossimi interventi che necessariamente coinvolgeranno sia le amministrazioni statali competenti, ma ovviamente anche quelle regionali, in particolar modo quella sarda e lombarda. Allora, la vicenda offerta di Intesa San Paolo a sorpresa lunedì sera su UbiBank. Oggi Allora, intanto il patto di consultazione di UbiBanca si riunirà domani mattina a Bergamo per analizzare l'offerta. L'accordo parasociale del patto raccoglie più o meno il 19% quasi del capitale di UbiBanca. Aderiscono alcune fondazioni e alcune grandi famiglie di imprenditori di Bergamo e Brescia. E il numero uno, Victor Massià, in una lettera ai dipendenti del gruppo ha detto: l'iter, prima di diventare un progetto, questo dovrà passare attraverso un complesso e per nulla scontato iter autorizzativo delle autorità vigilanti. Quindi ha detto: attenzione, non è un progetto già approvato, dice Massià. Ha confermato che l'offerta pubblica di scambio non è stata concordata e ha anche detto criticamente: l'offerta di scambio è arrivata al termine dell'importante giornata in cui abbiamo presentato il nostro piano industriale, accolto dal mercato e da tutti gli stakeholders con grande consenso e apprezzamento. Abbiamo appreso la notizia da un comunicato stampa, l'operazione non era concordata né a conoscenza del nostro consiglio di amministrazione né dei nostri manager. E poi adesso chiederemo a un advisor di valutare le offerte alternative. Invece il presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Grospietro, ha detto: l'offerta Ubi è piaciuta al mercato, guardano i dati di ieri, dai soci di Ubi mi aspetto una risposta positiva, vi sono altre mosse dopo Ubi, ha detto: siamo una banca ambiziosa. E ancora sul fronte invece dell'altro grande player bancario, mi riferisco a Unicredit, Jean-Pierre Mustier oggi in un messaggio ai dipendenti ha detto: riconfermo di non avere alcun interesse a fare operazioni di fusione e acquisizione, che non verremo coinvolti in alcuna transazione. Il nostro focus resta la trasformazione della banca e vabbè, aumentare i clienti e i servizi, siamo un gruppo solido. E poi ha aggiunto: siamo fortemente impegnati nel continuare ad accrescere il nostro sostegno all'economia reale italiana, siamo una banca paneuropea vincente e quindi unica nel suo genere, perché operiamo in Europa occidentale, centrale e orientale. Quindi la cosa importante è che non c'è nessun interesse ad acquisizioni. Lo dico anche perché in borsa oggi tra i migliori in assoluto c'è il titolo Monte dei Paschi, che a questo punto guadagna il 12%. Sappiamo che qualcuno ha ipotizzato che BPM possa essere interessata al Monte dei Paschi di Siena, ma è chiaro che una volta che parte un treno come quello di Intesa Subi, il gioco a vedere chi potrebbe a questo punto consolidarsi, fare acquisizioni e quant'altro viene in automatico. Sì, qualcuno mi chiede quindi: l'offerta pubblica di scambio è ostile? Beh, diciamo che non è concordata e diciamo che non è piaciuto anche il tempismo a Massià, che ha detto: in un giorno importante avete lanciato un'offerta. Però adesso vedremo quale sarà la risposta del mercato e soprattutto dei fondi, perché ricordo che il prezzo offerto è buono, sono il 27,5% in più dell'azione. È vero che è uno scambio di azioni Intesa su azioni Ubi, ma 27,5% in più rispetto alla chiusura di venerdì non è poca cosa, eh? 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dal splendido mondo del risico bancario, degli incroci bancari, delle acquisizioni bancarie, andiamo al mondo molto più prosaico di chi ha un lavoro e vorrebbe mantenerlo, però lo vede a rischio. Mi riferisco ai dipendenti di Auchan dopo l'operazione che lo scorso 14 maggio ha portato Conad a rilevare praticamente tutte le attività, la quasi totalità delle attività Auchan, e sì, quindi anche il marchio Simply, Auchan e anche i negozi di prossimità Auchan in tutta Italia. Si tratta di 3.000 e, scusatemi, la quota Auchan in tutto erano 1.600 punti vendita, gli esuberi confermati ad ora sarebbero 3.000. Partiamo, se riusciamo, però, da una buona notizia, perché oggi Conad, attraverso Sergio Imolesi, che è segretario generale di NC Conad, ha detto che non vi sarà nessun licenziamento per tutto il 2020 e ha ricordato che inizialmente si parlava di 6.000 esuberi e però adesso si è già scesi a 3.000. Enrico Nieti del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Poi dopo il meteo ti chiederò di farci anche racconto del piano industriale che è in testa pugliese, nel settore legato dell'interno. Però intanto è una buona notizia o vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno a tutti i costi? Allora, la dichiarazione di Sergio Molesi è stata fatta in commissione attività produttive questo pomeriggio e il manager ha messo anche le mani avanti su alcuni punti. Il punto fermo è nel 2020 non ci saranno licenziamenti. Il personale in pancia a Margherita Distribuzione resterà in cassa integrazione e varie altre forme di ammortizzatori sociali, ma quello che la vera incognita è cosa accadrà al 1 gennaio 2021, che sarà delle persone che sono rimaste all'interno del perimetro Auchan, Conad, Margherita Distribuzione. E questo forse lo sanno solo i top manager della società. Il punto certo è che loro dicono fino a 31/12/2020 zero licenziamenti. Ammortizzatori sociali sì, sono stati annunciati 5.300 persone che verranno messe progressivamente in cassa integrazione straordinaria. La motivazione è perché stiamo intervenendo su una rete, un perimetro di 110-113 punti vendita sparsi in tutta Italia, soprattutto ipermercati, che è la formula più obsoleta del commercio moderno, quella che ha da un lato maggiori investimenti e minori vendite, perché le vendite degli ipermercati negli ultimi anni sono sempre andate in fase calante, in flessione. Però guardando i dati presentati da Conad alle parti sociali scopri anche che ci sono un certo numero di negozi di prossimità che sarebbe un po' la formula vincente di quest'ultimo periodo. Ci sono anche dei supermercati, che anche questa è una formula che riceve un riscontro positivo da parte dei clienti. Ecco, su questo vorrei arrivare perché cambia anche il mondo della distribuzione. Tu citavi il caso dei negozi di prossimità, abbiamo visto varie catene, penso a PAM, ma anche altre, lavorare. Cosa vuol dire negozi di prossimità? Sono negozi molto più piccoli rispetto a un supermercato, ma anche, figuriamoci, a un ipermercato, che però hanno orari anche abbastanza flessibili, non dico che siano aperti 24 ore su 24, ma 7 giorni su 7, con orari lunghi, e che forniscono, diciamo, tutto un insieme di prodotti che possono servire, non dico per l'emergenza, ma per un primo acquisto. Dopo il meteo, come dicevo, ti vorrei in maniera un po' più estesa sul piano industriale complessivo che cosa potrebbe portare, anche perché da questo poi potremmo capire se i 3.000 ancora esuberi potrebbero essere ridotti o potrebbero invece, ahimè, salire. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. A 7:42 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Dunque, Enrico Netti, noi abbiamo commentato l'operazione, c'era Auchan che voleva uscire a suo tempo dall'Italia e Conad, non siamo contrari, anzi, al rafforzamento, diciamo, della catena, anche perché noi rispetto ai francesi abbiamo ancora delle dimensioni molto molto più piccole. Si è capito però, e qui si lega poi agli esuberi e al tentativo, come diceva lo stesso Imolesi, si è passati da 6.000 esuberi adesso a 3.000, di magari ridurre questa quota, si è capito l'operazione industriale in sé, cioè è solo mettere il marchio Conad nei punti vendita di Auchan o c'è qualcosa di più ambizioso? Allora, il punto fermo è che con l'acquisizione della rete Auchan, Conad è diventata la prima catena del retail, della grande distribuzione in Italia. Questo è il punto fermo che ha superato Coop. E ha superato Coop di qualche miliardo di euro di fatturato, per adesso stimato. Comunque questo è il punto fermo. L'altro, il piano industriale, un piano industriale vero e proprio non è stato ancora presentato. I punti, diciamo, certi sono che continua il confronto con le parti sindacali. Sabato a Bologna ci sarà un'altra giornata di confronto con i sindacati e soprattutto Conad, i lavoratori, le parti sociali attendono anche le decisioni dell'antitrust, perché che dovrebbero arrivare alla fine di febbraio e primi giorni di marzo. Dalle decisioni dell'antitrust si saprà le aree di sovrapposizione in cui Conad ha una posizione predominante, dove dovrà alleggerirsi di certi punti vendita sul territorio. Quello che la società sta facendo adesso è cedere, e l'ha continuato a fare negli ultimi tempi con a realtà come Esselunga, Carrefour, Unes, punti vendita, in maniera di alleggerirsi del personale e poi soprattutto cercare di rientrare anche nei parametri, di adeguarsi ai parametri dei vincoli dell'antitrust. Esatto. Il piano industriale, poi l'antitrust sta anche vigilando su un aspetto importante, i rapporti verso i fornitori, perché avere un super colosso non fa bene nemmeno alle piccole aziende che, per esempio, producono private label per Conad. L'operazione è stata presentata come un salvataggio in nome dell'italianità. Soprattutto speriamo che si continui su questa strada, in questa direzione, però anche l'antitrust ha segnalato i rischi di avere un fornitore che ti può mettere anche una piccola... Sì, devo dire una cosa, per carità, il tema lo capisco bene, devo dire una cosa, Conad comunque ha anche tanti piccoli soci, adesso non è il modello proprio delle coop, però... e quindi insomma esistono anche piccoli imprenditori dentro, no, non voglio dare l'impressione che ci sia solo una società che è gestita dai grandi capitali della finanza. E poi qualcuno mi fa notare, ma usciremo un po' dal tema, che invece sulla posizione dominante di Amazon nessuno ha da dire niente. Lo so, c'è un ritardo storico a mio avviso nell'antitrust, non solo italiano, anche quello europeo, perché parlo anche di altre vicende. Ogni tanto l'antitrust europeo blocca delle fusioni perché creeresti dei campioni, dei soggetti troppo grossi, però bisogna capire se sono grossi per l'Europa o grossi a livello mondiale, perché poi se la competizione la devi fare con dei colossi che vengono fuori dall'Europa, anche il parametro delle dimensioni cambia. Scusami, per concludere Enrico, quando è che avremo maggiore visione sul piano industriale di Conad? Io spero che l'azienda comunichi uno scenario globale complessivo una volta che sono arrivate le decisioni dell'antitrust. A questo punto sapremo anche quali altri punti vendita dovranno essere ceduti a terzi. Magari si può sperare in una riduzione del personale in esubero, anche se oggi Molesi ha ribadito che abbiamo chiesto anche ai nostri fornitori di assumere i nostri ex dipendenti Auchan. Per cui il vero problema è le risorse umani in esubero, in eccesso, che è quello che è più difficile da gestire al momento attuale, su cui Conad sta facendo un po' ha una sua visione, però i risultati li vedremo solo a fine anno, quando si trarrà una linea del saldo. Cioè, tra operazione e saldo, anche a me interessa in questo luogo, in questo caso soprattutto quello occupazionale. Grazie intanto a Enrico Netti del Sole 24 Ore, traffico e poi rapidamente la borsa, e per andare poi a Pirelli. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Focus Economia. Dunque, qualcuno mi scrive, guardate che però la grande distribuzione NSA italiana promuove i prodotti italiani. Sì, è vero, per quello che io sono dell'idea che bisogna guardare anche gli esuberi, cosa succede all'occupazione, che servono grandi catene italiane di distribuzione e che vadano anche all'estero. Guardate che non è un mistero per nessuno, ma i vari Auchan e Carrefour, poi quando vanno all'estero promuovono come i prodotti francesi, dai formaggi non solo. E noi, se abbiamo la forza di avere catene lunghe, dobbiamo promuovere i nostri prodotti, non dico all'estero ancora, ma almeno in Italia. Comunque, la borsa e poi il piano industriale di Pirelli. Flavia Carletti, Radio Colle Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Campari scende, ha annunciato il trasferimento in Olanda. In realtà l'utile è salito, le vendite anche, il gruppo Campari ha registrato vendite per 1.842 milioni, con sostanzialmente un utile netto che si è attestato a 267 milioni, in crescita del 7%. Il dividendo sale del 10%, non va in Olanda per motivi fiscali ma per motivi societari. La sede legale in Olanda, quella fiscale, cioè le tasse le pagheranno in Italia. In Olanda sostanzialmente puoi controllare una società nel diritto olandese con meno azioni rispetto all'Italia. La dico male per farmi capire, perché scende così tanto Campari? Allora, da una parte è vero che perde il 3,40. Sì, esattamente. Da una parte appunto i risultati del 2019 sono andati bene, ma gli analisti si sono concentrati soprattutto sui risultati del quarto trimestre, che sono stati considerati deludenti e sono stati sotto le previsioni degli analisti, sia per quanto riguarda i ricavi, che sono stati di 539 milioni, che anche quello dei margini. Infatti l'EBIT comunque al netto di voci straordinarie è stato di 120 milioni e in parte anche, secondo alcuni, non sono piaciute le stime per il 2020, che danno, diciamo, troppo spazio, che non dà, diciamo, troppo margine per l'aumento proprio dell'EBIT. E in più comunque alcuni facevano notare che possono essere per Campari anche dei realizzi, perché il titolo era arrivato intorno ai 9 euro, aveva recuperato la quota dei 9 euro che era il massimo da un anno, e quindi, diciamo, si è scatenato un po' quell'effetto sell on news, quindi nel momento in cui sono usciti i conti che erano attesi, e in più c'è stato questo annuncio dello spostamento della sede in Olanda, che prevede un diritto di recesso, con un recesso che è inferiore le quotazioni attuali, in qualche modo ha scatenato un po' le vendite. Allora, qualcuno mi chiede di Ferrero, non parlate, beh, non è quotata, però parlo volentieri di Ferrero, perché ha diffuso ieri dei conti ottimi, ha raggiunto il fatturato consolidato, quindi di tutte le società, sono 104 società e 31 stabilimenti produttivi, ha toccato gli 11 miliardi e mezzo di euro, più 6%, a trainare le vendite soprattutto i mercati di Germania, Francia e Stati Uniti, e dipendenti del gruppo in aumento sono a questo punto 36.300 i dipendenti della Ferrero, che è obiettivamente un gioiello, un fiore all'occhiello delle imprese italiane. Chiudo su Ferrero, invece torniamo alla borsa. In una giornata in cui non ci sono stati grandi movimenti sui titoli UBI e Intesa, era immaginabile, Intesa ha fatto più 0,13, UBI più 0,20, BPER ha fatto meno 0,30, ma insomma niente a che vedere con ieri ricordo che sostanzialmente il titolo UBI si è allineato quasi al valore offerto da Intesa San Paolo. Bene, ST Microelectronics più 4,60, Moncler più 3,70, Pirelli, ne parleremo fra un attimo, più 3,30, Prysmian più 3,20, Fineco più 3,20, Unipol più 2,80, ERA più 2,50%. Si è mossa però moltissimo nel settore bancario Monte dei Paschi, più 11,5%. Sì, esattamente. Diciamo, oggi è il titolo che è stato più sotto riflettore del comparto bancario. Da una parte sì, era stata sempre data come una dei possibili target di qualcuno, perché c'è il tesoro che deve uscire dall'azionariato, e quindi sì, il mercato in questo momento... E si parlava di banca BPM, no? Sì, esatto. Anche se appunto oggi Castagna ha frenato dicendo che il banco BPM non andrà avanti da solo, esatto, al suo piano. Insomma, esce già una fusione, adesso ha questo piano stand alone da portare avanti. Però oggi il ministro Gualtieri ha parlato e ha detto che comunque le vendite di ulteriori NPL proseguiranno come previsto, e loro, ed è convinto che nei tempi previsti si arriverà a una soluzione. In più comunque ha garantito che il tesoro come previsto uscirà, e quindi questo ha un po' scatenato la speculazione del fatto che il titolo possa tornare nell'interesse di qualcuno. Allora, così abbiamo parlato anche del Monte dei Paschi, visto che un ascoltatore mi diceva: perché non parli del Monte dei Paschi? Ha avuto la sfiga di scrivere un minuto prima che ne parlassimo. Certo, non conviene toccare i poteri forti, ma quali sono i poteri forti del Monte dei Paschi? Lo Stato italiano che ha dovuto salvarlo. Comunque, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Grazie Flavia Carletti, noi ci risentiamo dopo il GR24. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic, fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22:30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Focus Economia. Down. 18 e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, io invito alcuni ascoltatori che criticano al 349-238-6666 dicendo non parlate del tema, almeno verificate se abbiamo detto che ne parleremo o non ne parleremo, perché qualcuno mi scrive sulla hard Brexit che penalizzerà le fasce sociali meno preparate. È il tema successivo a quello che sto per affrontare, che si chiama piano industriale della Pirelli. Il titolo, ne parlavamo prima, nei mercati finanziari si è mosso bene oggi, è il terzo miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, più 3,30%, ricavi in crescita del 2,5% nel 2019 e a 5 miliardi e 323 milioni, 5 miliardi e 323 milioni di euro, in linea con l'obiettivo che si erano posti di 5 miliardi e 300 milioni. Lo ha seguito il collega di Radio Corriere sulle 24 ore, Andrea Fontana. Andrea, buonasera. Buonasera Sebastiano. Che cosa prevede, che il dato del 2019 ormai è giustamente storia, che cosa prevede il piano industriale 2020-2022? Sì, il piano prevede di mantenere una crescita dei ricavi intorno al 3%, che porti i ricavi a 5,8 miliardi a fine del periodo, e aumentare leggermente la redditività portandola intorno al 18-19% come utile operativo sui ricavi. Questo viene fatto con un intervento importante sulla base dei costi, perché si prevede un calo una riduzione dei costi di 510 milioni nel triennio, cioè pari all'11-12% dei costi attuali. Tutto questo per salvare, appunto, sostenere la redditività e procedere anche a una distribuzione dei dividendi di 500 milioni di euro di dividendi, 500-600 milioni nel triennio, pari al 40% del utile netto. Sotto profilo qualitativo sentiamo le stesse parole di Tronchetti Provera di come ha sintetizzato il piano. È un piano che si basa su una forte efficienza di costi, su uno sviluppo di tecnologie e si basa su una e ha come risultato una generazione di cassa molto elevata grazie agli investimenti che sono stati fatti in passato e che permettono all'azienda di crescere senza un fabbisogno di investimenti elevato, e gli investimenti sono concentrati su tecnologia, ambiente. Questi sono, diciamo, gli elementi chiave del piano. C'è stata qualche valutazione dei vertici di Pirelli, visto che loro sono un'azienda assolutamente internazionalizzata, hanno 3 fabbriche in Cina, sull'impatto del coronavirus? Assolutamente sì, è stato un tema toccato ampiamente anche nelle domande degli analisti. Pirelli attualmente sulle 3 fabbriche che ha in Cina ne ha 2 ferme, una diciamo viene utilizzata solo parzialmente. Pirelli ha stimato che sul mese di febbraio questo ha comportato una riduzione del volume di vendita in Cina dell'80% e su marzo sarà del 30%. 30%, ha stimato un impatto a livello trimestrale dell'utile operativo di gruppo di 30 milioni di euro. Tronchetti Provera non è parso comunque diciamo per il momento preoccupato, quindi non sarà necessario rivedere gli obiettivi del piano che sono stati appena presentati e i target del 2020, ha rimandato tutti al mese di maggio per fare il punto, e ha detto anche che dalla prossima settimana è previsto che il personale non residente che era uscito dalla Cina possa rientrare, che gradualmente dovrebbe riprendere l'attività, ma bisognerà capire se l'impatto del coronavirus sulla produzione riguarderà e sulle vendite riguarderà anche, si estenderà anche al secondo trimestre e non solo al primo, su cui l'impatto è già stato quantificato. Allora, ancora due domande. La prima, se visto che Pirelli ha lanciato a suo tempo, io ricordo, gli pneumatici con i sensori, e quindi diciamo l'automobile con tutti i sistemi che dialogano, Internet of Things, come si chiama in gergo, vorrei capire qual è la loro scommessa sull'auto elettrica, auto condivise, insomma sulle nuove forme di mobilità delle quattro ruote, e l'altra se si è parlato della successione a Tronchetti Provera. Sì, per quanto riguarda il tema dell'auto elettrica e il tema anche dell'intelligenza artificiale applicata all'automotive, diciamo c'è stata una sottolineatura importante da parte del piano industriale, da parte di Tronchetti Provera, soprattutto accompagnata alla loro focalizzazione sul pneumatico per le auto di alta gamma, tant'è che il piano industriale prevede che tutti i pneumatici dei veicoli del segmento appunto di alta gamma nel 2025 saranno pneumatici connessi dal punto di vista dei sensori, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale e quindi sotto controllo del guidatore dal punto di vista dei dati e anche dal punto di vista dell'efficienza. Ha sottolineato anche l'importanza che sta assumendo Pirelli nel rapporto con Tesla. Pirelli è un fornitore di circa il 10% dei pneumatici utilizzati da Tesla ed è presente nei vari modelli che Tesla, non ultimo il prossimo che verrà lanciato il Model 3entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda il tema della successione, Tronchetti ha ovviamente ricordato che le scadenze negli accordi con i soci sono quelle della primavera del 2023, che lui ha iniziato a valutare, sta valutando le figure papabili per la sua successione. La novità di oggi è stata che non solo valuta delle figure interne, come aveva detto fino a qualche tempo fa, ma che sono prese in considerazione anche delle figure esterne che quindi potrebbero tra 2-3 anni sostituire il capo azienda, anche se ha ricordato insomma che c'è un modello di business ben orientato e che quindi insomma si sente tranquillo da questo punto di vista. Allora, grazie anche Andrea Fontana, è importante ricordare appunto, visto che è periodo di bilanci, di piani industriali, quello del gruppo. Adesso andiamo sul traffico, poi per accontentare l'ascoltatore, ma l'avremmo fatto comunque, l'approfondimento sulla Brexit, perché ripeto, al di là dell'anno di transizione, se il buongiorno si vede al mattino, qua piove, perché la Gran Bretagna ha fatto sapere che sta ragionando su una hard Brexit, quindi una Brexit dura, soprattutto nel decidere chi potrà restare e lavorare nel Regno Unito. Faccio presente che la notizia riguarda 700.000 italiani più o meno che sono lì presenti e 14.000 studenti che sono presenti, chiaramente non come lavoratori. Dopo il traffico. Focus Economia. Oh, sono tornati i Clash. Qui London Calling in una maniera un po' selettiva, se ho ben capito, perché il governo di Boris Johnson punterebbe a un modello di tipo australiano. In Australia, lo dicevamo in apertura, c'è un sistema che funziona da decenni, molto selettivo, molto efficace. Certo, l'Australia è un paese con poco più di 20 milioni di abitanti, in cui ogni anno loro danno una lista dei lavori che gli servono, dei lavoratori che gli servono, cioè le figure professionali che gli servono: meccanici, infermieri, idraulici, docenti di storia, quello che volete voi, e si va a punteggio, e poi uno può ottenere la green card, cioè la tessera per il visto per lavorare, prende quel punteggio. Dunque, per quello che riguarda il progetto, se ho ben capito, britannico, dal 2021 anche gli europei che volessero entrare in Gran Bretagna dovranno sostanzialmente superare un insieme di punteggi attribuiti 10 o 20 per voce, devono avere minimo 70 punti e potrà essere concesso solo ai richiedenti europei non che appunto abbiano questi 70 punti, e devono avere già in mano offerte di lavoro da 25.000 sterline in su, titoli di studio specifici come PhD, qualificazione per settori con carenza occupazionale nel Regno Unito e conoscenza dell'inglese. I laboristi hanno chiesto di assicurare almeno alcune eccezioni in settori strategici dove manca proprio il lavoro, mancano i lavoratori, scusatemi, la sanità, dove la stragrande maggioranza degli infermieri sono stranieri. Però Leonardo Maisano in collegamento da Londra, buonasera Leonardo. Buonasera a voi. Dicevo che se buongiorno si vede al mattino, qua siamo parte male il mattino, parte con la pioggia, perché immagino che l'Europa, da quello che ha fatto capire, consideri questo un atto di hard Brexit e quindi di forte limitazione alla circolazione di persone, oltre che delle merci che vorrebbe invece la Gran Bretagna, verso il Regno Unito. Sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio che sia così. L'obiettivo del governo Johnson è anche di creare, come dire, una rivoluzione interna, cioè cercare di mobilitare quel gran numero, circa il 20%, di popolazione economicamente, quella che loro considerano popolazione economicamente inattiva, che non lavora e che non sta facendo training, che non è nelle liste di disoccupazione, perché poi la disoccupazione qui è ufficialmente quasi a zero, però c'è molta gente che vive di sussidi e di benefici vari. Quindi uno degli obiettivi teorici di questa misura è riportare al lavoro persone che non lavorano da tempo. Operazione quanto mai complessa, anche perché spesso sono lavori che la media dei cittadini britannici non intende fare, non è qualificata a fare e non ha mai mostrato alcuna volontà di voler... Ecco, una cosa da chiarire, questo varrà per tutti gli stranieri, cioè gli europei, ma anche, voglio dire, i pakistani, gli indiani, l'ex Commonwealth. Sì, certo. No, lo dico perché ben prima della Brexit noi sappiamo che la Gran Bretagna è stato un grande serbatoio di immigrazione anche dalle ex colonie, ma appunto, come dicevi tu, di lavori che spesso non si vedeva la fila fuori da parte degli inglesi per fare questi lavori. E in altri casi, lavori più qualificati, guardate che per esperienza diretta la City britannica, senza i laureati francesi, italiani, spagnoli, tedeschi, belgi, quello che volete, col cavolo che restava la prima piazza finanziaria, perché non è che le scuole britanniche riescano a sfornare tutti questi competenti. Però, se ho ben capito, l'accusa qui è di andare a discriminare i lavori più... così, più bassi socialmente parlando, nel senso che se tu hai un PhD e hai uno stipendio più alto di 25.000 sterline, problemi non ne hai. No, esatto, c'è personale qualificato di cui c'è particolare bisogno, porte aperte. Normalmente uno che ha un PhD o un master l'inglese lo parla correntemente, quindi non sono dei test di particolare complessità, se quella posizione è voluta ed è desiderata. In realtà bisogna capire che cosa succederà, per dire, il famoso idraulico polacco o il costruttore o il muratore rumeno. Ecco, Priti Patella, ministro degli interni, ha fatto capire in una serie di interviste oggi che non potrà arrivare autonomamente, come diciamo una partita IVA e un lavoratore singolo, ma dovrà essere impiegato, quindi dovranno essere delle teoriche nuove imprese britanniche che assumono queste persone, gli garantiscono un contratto. Tutto questo. L'esigenza di normalizzare un po' un mercato che è stato abbastanza disordinato, si può anche capire, arrivare a questo è francamente, al di là di qualsiasi giudizio eccessivo o non eccessivo, è francamente impraticabile. Cioè noi vedremo tra 11 mesi in teoria lavoratori stagionali che se ne vanno, perché non parliamo di quelli che ci sono già, che hanno permesso, restano. Vabbè, quelli restano. Ma, esatto, ma stagionali che se ne vanno via e che non possono essere rimpiazzati. Pensiamo soltanto al turismo o alla sanità, come dicevi giustamente tu, e hai creato uno scenario di grande preoccupazione che le imprese attraverso la Confindustria britannica e le altre organizzazioni hanno già manifestato, hanno ripetutamente manifestato al governo. Ora si tratta di capire quanto questa è una posizione negoziale, alziamo la voce, facciamo, come dire, i duri, come stanno cercando di fare da gennaio gli inglesi, per far capire che loro non cederanno al ricatto, ai ricatti europei, immaginandoci, come ci siamo già detti altre volte, una grande trattativa, mentre in realtà si tratta di accettare o non accettare delle regole che non cambiano per la Gran Bretagna. Insomma. Allora, sì, hai fatto bene a chiarire una cosa: chi è già lì e ha il permesso di soggiorno non cambia nulla, ci sono circa 3 milioni di cittadini europei che già lavorano nel Regno Unito e non saranno toccati dalle nuove regole. Chi invece voleva o aveva intenzione di arrivare nel 2021, invece c'è il rischio forte, se ho ben capito Leonardo, che queste nuove regole se le becchi. A me sembra di vedere anche molta ipocrisia, lo dico in maniera molto netta. Tutti stanno scrivendo, state elogiando, ah brava la Gran Bretagna, che tutti vorremmo avere solo immigrazione di laureati, a parte il fatto che vorrei capire quanto saremmo contenti se hai il figlio laureato che ti venga a fare concorrenza al laureato polacco. Però inutile girarci attorno, ci sono dei lavori anche in Italia che molti italiani non sono disposti a fare, non è che le badanti, le babysitter si trovino così, caschino dal cielo, o i lavapiatti o i lavori nella retrocucina, non vedo tutta questa fila, poi magari mi sbaglierò. E quindi vale anche per la Gran Bretagna questo discorso, per cui è inutile dire ah ma noi vorremmo solo, anche noi solo i laureati. Fatevi un giro per un per il centro di Birmingham, di Bristol, di Londra, e ditemi chi cavolo ci sta nelle cucine dietro, cioè, non è che sia la fila degli inglesi bianchi pronti a lavorare lì. Leonardo, non c'è molto populismo dietro sta cosa? Sì, c'è questa sventolata volontà autarchica, sì, no? Riprendiamo in mano il paese, rifacciamo noi, che è francamente ridicola in un mondo globalizzato, eccetera. Però un po', ribadisco, un po' di ordine andava messo in una situazione che è stata per anni sregolata di fronte a un evento come quello dell'uscita dal mercato interno e quindi dall'uscita degli automatismi della partecipazione all'Unione Europea. Qualche cosa andava fatto. In questi termini è francamente appare, a mio avviso, impraticabile, non solo a mio avviso. Ma comunque, al di là di quello che penso io, che chi se ne frega, giustamente, come dicono gli ascoltatori, a me sembra che in questo modo il dialogo con l'Europa parta tutto in salita. Poi, se ho ben capito il tuo ragionamento, Leonardo, dovremo anche abituarci nei prossimi mesi a molta tattica, cioè alzo l'asticella per poi faccio la voce feroce per poi trovare un accordo, la sparo grossa in modo che poi si vada a trattare. Questo mi sembrava anche il tuo ragionamento. Assolutamente sì, anche se c'è, devo dire la verità, la sensazione di un'assoluta imprevedibilità da parte di questo governo, che è in mano, che è largamente come dire, controllato da advisor, uno in particolare è molto vicino al primo ministro, che sono figure nuove, relativamente aliene alla politica tradizionale, che si escono con idee magari anche brillanti ma da laboratorio, che buttate nel mezzo di questo passaggio epocale com'è quello della Brexit per la Gran Bretagna, lasciano un po' sconcertato. Ora sarà tattica, io immagino ci sia molta tattica, però c'è sempre un margine di grande incertezza, cioè fino a che punto si spingeranno davvero, fino a che punto quello che dicono diventerà diventerà norma, legge, eccetera. È molto difficile da prevedere. Io credo laddove, bluff, già... laddove bluff, no. Dove invece c'è la trattativa. Esatto, no, esatto. Allora, una risposta nel salutare Nando Maisano. Guardate che molti mi dicono sì, ma il problema è che magari gli inglesi non vogliono, li vorrebbero fare quei lavori, ma non a 700 sterline al mese. E allora il problema si ripropone, perché o immaginiamo che quei lavori più bassi, tra virgolette, vengono fatti dagli inglesi al doppio dello stipendio, allora auguri sulla produttività e l'inflazione in Gran Bretagna, perché poi gli stipendi si pagano, oppure stiamo dicendo la stessa cosa, cioè che se quello è il prezzo che stabilisce il mercato, hai più facilità a trovare un indiano, un pakistano o anche altre nazionalità che non un inglese. Delle due l'una, o facciamo aumentare il costo del lavoro, può essere una soluzione, ma aumenta l'inflazione, aumentano i prezzi finali, oppure ti tieni quel modello lì. Poi che un po' di regolamentazione ci dovesse essere anche in Gran Bretagna, nessuno lo mette in discussione, ma a me, al di là della Gran Bretagna, interessa che tipo di approccio vuole avere con l'Europa, ma ne torneremo a parlarne. Adesso è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.